Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo del rapporto che già vi ha anticipato il nostro GR della Corte dei Conti, che dice in sostanza: attenzione, le misure intraprese, per quanto necessarie, per quanto comprensibili, hanno avuto un effetto o l'effetto di aumentare la recessione, effetto che in gergo si chiama prociclico, quindi hanno aumentato il ciclo era negativo ed è diventato ancora più negativo, perché per esempio il prelievo fiscale, già molto alto prima, ha posto le condizioni per ulteriori effetti recessivi. Dalle manovre correttive c'è il rischio di avvitamento su cui modestamente continuiamo a mettere in guardia anche noi. Cioè, l'avvitamento vuol dire che se tu continui a aumentare le tasse e a non mettere risorse per lo sviluppo, chiaramente i consumi continueranno a calare, calando i consumi le imprese vanno in maggiore difficoltà e quindi aumenta la cassa integrazione e licenziamenti, diminuisce il potere d'acquisto e i consumi continuano a calare. Questo vuol dire rischio di avvitamento. Tra l'altro, che il rischio di avvitamento ci sia, ce lo dice oggi anche il dato sulla disoccupazione, perché il dato che riguarda le richieste di cassa integrazione e disoccupazione è obiettivamente altissimo. A gennaio 500.000 di persone sono risultate in cassa integrazione a zero ore, 524.000 persone, ma soprattutto nel 2012 le domande di disoccupazione arrivate all'INPS sono state 1.500.000, ossia il 15% in più quasi rispetto all'anno prima. È un 15% che pesa tantissimo, mentre sempre il dato di gennaio, le ore di cassa integrazione rispetto al gennaio 2012 sono state il 61% in più, quindi autorizzate 89 milioni di ore di cassa integrazione contro i 55 milioni del gennaio 2012. Questo a dire, insomma, che la situazione sul fronte occupazione è molto delicata, è molto grave, più che delicata, e che il rischio di avvitamento viene palesato da più parti. Lo dico perché dall'altro lato oggi la notizia riguarda l'inflazione, a dimostrazione che non c'è un problema di inflazione in Europa, nell'area euro. C'è forse solo per i tedeschi, per la loro ossessione sull'inflazione, sulla stabilità dei prezzi. C'è un problema di un euro molto forte che non avvantaggia le imprese italiane, magari va a vantaggio in alcuni casi di quelle tedesche che hanno un'altra struttura produttiva. L'euro è a 1,3565 anche oggi. C'è un problema di Europa in recessione, non c'è un problema di prezzi al consumo in eccessiva crescita, di inflazione, anche perché quando tu non consumi è difficile che i prezzi aumentino, e il dato di oggi ce lo ricorda. Tra l'altro è cambiato anche il paniere dei beni, poi ne parleremo. Faremo il punto quindi sulla Corte dei Conti da un lato, dall'altro anche sull'andamento di borsa, e qui il tentativo di recupero si è già fermato, più 1% il FTSE MIB in questo momento, l'1,14 il guadagno di Parigi, lo 0,30 quello di Francoforte, lo 0,70 quello di Londra. Si è già fermato, nel senso che le banche hanno recuperato qualcosa dopo il tonfo di ieri, Unicredit più 2,35%, ma ha perso più dell'8 ieri, il Monte dei Paschi più 2,81%, Snam più 2,30%, Intesa San Paolo più 2%, Eni più 1,80%, invece resta ancora negativa Telecom Italia meno 1,5%, il Banco Popolare meno 1,20% e la Popolare Emilia Romagna meno 1,40%, ma anche la Popolare Milano meno 0,90%. Nel giorno in cui, e questo sarà il secondo tema della giornata e della puntata, sono tornati a farsi sentire già ieri in serata le tensioni internazionali. Allora, anche qui lo spread è tornato a 293 punti, sopra i 290 punti, poi è ridisceso a metà giornata a 280 punti. Siamo ancora a un livello non di allarme, ci mancherebbe, ma il segnale arrivato ieri da Wall Street Journal sulle preoccupazioni per la campagna politica italiana e anche per la situazione politica in Spagna dopo le accuse di corruzione al premier Rajoy, erano molto molto molto esplicite. E quindi attenzione, lo dico perché la campagna elettorale di cui parleremo nella seconda ora del programma, quanto proposte economiche, è una campagna in cui si discute ancora sul condono, no? Sì, condono no, Berlusconi ha lanciato l'ipotesi di condono fiscale, oggi bocciata dal suo alleato Lega, ha detto Maroni infatti non passa con noi il condono, che era il modo in cui l'ex premier voleva reperire le risorse per eliminare l'IMU sulla prima casa, i 4 miliardi, anche su questo di nuovo numerosi botta e risposta. Mi sembra però che sia dal fronte PDL che dal fronte PD e anche fronte Monti risposte sul tema di come far ripartire i consumi e l'occupazione non ce ne sono o sono molto molto deboli, e a maggior ragione, scusate se insisto, anche indicazioni nette e chiare su quello che si chiederà all'Europa il giorno dopo aver vinto le elezioni, qualunque sia il partito che le vincerà. E quindi assistiamo in maniera così un po' alla finestra a una grossa polemica su IMU sì, IMU no, quando sappiamo che se non cambieranno le cose scatterà l'IVA al 22%, sono altri 4 miliardi di introito per lo Stato, ma di minor potere d'acquisto per i cittadini. E sappiamo benissimo da questo punto di vista che ragionare solo di misure una tantum di carattere fiscale non porta a far ripartire l'economia. O c'è un piano complessivo di riduzione fiscale in busta paga, su chi le tasse le paga, che liberi risorse e anche alleggerisca le pressioni sui conti pubblici, oppure tutto il resto sono palliativi. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook per quello che riguarda Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve e come anticipato poi ieri non ce l'abbiamo fatta, oggi raccontiamo di nuovo alcuni sprechi delle regioni ma anche di alcune province di questo paese. Sempre sui mercati internazionali, oro fermo a 1670 dollari l'oncia, petrolio in calo 96 dollari, la benzina è salita ancora negli stabilimenti Esso e IP a 1,860 euro al litro. Mi fate notare di Seat Pagine Gialle, avete ragione, parleremo anche di Seat Pagine Gialle, il titolo non riusciva a far prezzo, è ormai a un millesimo di euro, ha perso anche adesso il 33%. Vale 0,0013 euro. Non pagherà gli obbligazionisti, insomma tecnicamente la società è fallita, ha chiesto appunto il concordato, ma insomma è fallita, non c'è più niente da dire. Quando un titolo quota 0,001, di cosa stiamo parlando? Andiamo avanti, dicevo, con le altre notizie. Invece da Wall Street arriva una nuova indicazione di euforia, perché il Dow Jones è tornato di nuovo sopra i 14.000 punti. Anche questa volta si è riportato, cioè ai livelli, lo aveva già fatto la settimana scorsa, ai livelli dell'ottobre 2007. L'aveva superata venerdì scorsa, ora una nuova conferma. Siamo ai livelli prima della crisi. Interessante quello che è emerso ieri in serata dagli Stati Uniti, che praticamente le autorità americane starebbero per lanciare una procedura civile, farebbero causa all'agenzia di rating Standard & Poor's per avere valutato in maniera sbagliata alcuni mutui ipotecari all'origine della crisi finanziaria del 2008. Faccio anche presente che anche il voto di Lehman Brothers era un buon voto, però insomma cambia il vento, cambia l'aria, sbagli il giudizio sulla fidabilità di uno strumento finanziario che si rivela poi invece rischiosissimo e che salta per aria, non puoi semplicemente dire, come abbiamo fatto sentire molte volte nelle disposizioni al congresso a parte dei numeri uno dell'agenzia di rating, noi davamo solo opinioni. Eh no, troppo comodo, siccome le tue opinioni muovono i mercati, te le fai anche pagare care, allora devi essere responsabile di quello che dici, soprattutto quando canni, scusatemi il termine, in maniera così palese il giudizio sulla qualità di molti titoli che poi si sono rivelati carta straccia. Su. Passiamo all'Italia, qui c'è una buona notizia riguardo il calo dei tassi di interesse applicati dalle banche per i nuovi mutui casa alle famiglie. Dico che è una buona notizia perché dai dati della Banca Centrale Europea i tassi applicati sui nuovi finanziamenti per chi ha deciso di comprare casa, di accendere un mutuo adesso, sono calati al 3,92% contro una media europea del 4%. I tassi europei restano comunque superiori alla media dell'area euro. Noi li abbiamo appunto al 3, la media dell'euro è al 3,4%, ma in Francia sono più cari, 4,05%, anche in Olanda 4,1%, in Portogallo 4,4%, quelli più bassi sono in Germania, il 2,9%. La vicenda Monte dei Paschi, ne parleremo domani, comunque c'è il consiglio di amministrazione per fare il punto sulle perdite legate ai derivati. La prossima settimana il Monte dei Paschi metterà 3 miliardi e 900 milioni di Monti Bond per rafforzare il suo patrimonio. Intanto però si è appreso che la Consob avrebbe potuto verificare facilmente i reati commessi nell'area finanza. Qui ci sono due aspetti sull'autorità di vigilanza, mi dispiace tornarci, ma insomma, se gli ispettori avevano fornito al loro capo della vigilanza Tarantola, che adesso è il numero uno della RAI, ma avevano fornito le indicazioni di quanto stesse capitando nel Monte dei Paschi, di tutte le anomalie riscontrate, non si capisce perché poi la Banca d'Italia si sia mossa solo dopo l'intervento della magistratura. E dall'altro la Consob, dicevo, avrebbe potuto verificare facilmente i reati commessi nell'area finanza. Gli illeciti infatti sarebbero stati denunciati in un esposto anonimo inviato nell'agosto del 2011, lo sostiene la redazione di Report, il programma di Milena Gabanelli. Nel frattempo però il Vaticano ha smentito che vi fosse che fossero transitati fondi su conti presso lo IOR posseduti da dirigenti del Monte dei Paschi. Lo ha detto il portavoce del Vaticano padre Federico Lombardi. Ieri c'erano state indiscrezioni di stampa su questo tema, in cui veniva ipotizzato che uno di questi conti allo IOR sarebbe servito per pagare le persone utilizzate nel 2007 per organizzare la seconda vendita di Antonveneta. E ancora l'inflazione in Italia, diciamo, a gennaio frena al 2,2%, siamo ai minimi dal 2011, poi vi racconterò, anzi diciamolo subito, il carrello della spesa, cioè l'inflazione, la crescita dei prezzi al consumo dei beni maggiormente acquistati, è più alta dell'inflazione normale, ma frena anch'essa al 2,7%. Il rincaro della benzina a gennaio è stato del 3,1% rispetto al gennaio del 2012, è il rincaro più basso dal 2009, mentre i beni alimentari in senso stretto hanno ancora avuto un rialzo molto forte, il 3,2%, è l'aumento come prezzi in un anno, l'aumento maggiore dal febbraio del 2009, quindi da quasi 4 anni. E lì il sospetto è che sui generi alimentari, dove è più difficile comprimere la spesa, proseguono invece gli aumenti. Laddove invece tu puoi rinunciare all'acquisto, tutti i generi non di prima necessità, notiamo prezzi o fermi o addirittura in calo. Comunque è cambiato il paniere dell'Istat, quello che serve a fotografare e a registrare l'inflazione. Sono entrate nel 2013 il gas metano per autotrazione e le bevande energetiche, gli smartphone con un numero più alto, i tablet, che ora comprendono anche i phone tablet, tra cui smartphone e mini tablet, e sono usciti i netbook, i diari scolastici, non so perché si usano ancora, e la mediazione civile. Le agende e i diari scolastici sono usciti. Molto strano, mentre per quello che riguarda le polizze RC auto si è scoperto che vi sono stati tra ottobre 2011 e ottobre 2012 aumenti tariffari diffusi con punte del 12%, se tu sei una donna quarantenne e hai uno scooter di 200 cc. È l'ultima indagine dell'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni, molta la differenza tra nord e sud, Gli incrementi infatti risultano più elevati nel blocco delle province meridionali. A Napoli si spendono fino a 1000 euro per assicurare il motorino appunto usato come riferimento. ...349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Facebook di Focus Economia su Facebook per comunicare con il programma. Adesso, prima di arrivare alla relazione del Presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, purtroppo torna la nostra rubrica su come vengono utilizzati i soldi nelle amministrazioni locali di questo paese. In bianco il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, allora, la regione Puglia oggi, qui è un po' in chiaroscuro, perché? Perché da un lato è vero che con il cedolino di gennaio per i consiglieri della regione Puglia è arrivata la decurtazione degli stipendi decisa dalla legge dello scorso 30 novembre, un taglio di circa 1.500-2.000 euro netti per il consigliere regionale semplice che da gennaio incasserà 8.000 euro netti tra indennità, circa 4.000 euro netti, e rimborso ogni comprensivo esentasse altri 4.000 euro. E poi dal 1 gennaio è eliminata l'indennità di fine mandato, la liquidazione e il vitalizio, cioè la pensione. Però attenzione, i consiglieri in carica non perderanno il diritto a percepire sia la liquidazione che il vitalizio, che la pensione. Semplicemente i calcoli per i loro assegni si fermeranno al 31 dicembre 2012. E poi c'è un caso un po' strano di assicurazione antinfortunistica. Per carità, è giusto che il consigliere regionale abbia un'assicurazione antinfortuni, ma perché praticamente per i 70 consiglieri della regione Puglia gli oneri sono fissati per il 60% a carico degli interessati, per l'altro 40% a carico del consiglio regionale, e cioè dei cittadini pugliesi? Voglio dire, se ti fa una polizza assicurativa, ma te la pagherai tutta tu, no? Chiedo, magari agevolata. In questo modo i consiglieri dovranno versare 400 euro all'anno per la loro parte della polizza antinfortuni, e invece l'esborso per ciascun eletto, se non fosse stato caricato il 40% sui cittadini pugliesi, sarebbe dovuto essere di 660 euro. E quindi sostanzialmente, invece che 33 euro al mese, di 55 euro al mese. Da lì ci spostiamo a Palazzo Santa Lucia, ossia la sede centrale della regione Campania, perché finalmente dopo 2 anni hanno pubblicato gli stipendi dei dirigenti da più di 100.000 euro lordi. Vanno calcolate per addizione, perché c'è la parte del fisso 43.000 euro e poi la parte variabile. Comunque, insomma, ci sono Gaetano Botta e tanti suoi omologhi da 101.000 euro lordi l'anno, fascia media per i dirigenti da 92.000 euro, fascia bassa, Marco Balzano e tanti, sugli 80.000 euro. Poi però ci sono gli assegni ad persona, dai 1.400 ai 3.000 euro. A queste somme va aggiunto il bonus, la retribuzione di risultato. Lo intasco i più meritevoli. Peccato che in Regione Campania siano praticamente tutti meritevoli del bonus da 18.000 euro lordi. E poi finalmente pubblicati anche gli stipendi dei membri dell'ufficio di diretta collaborazione del Presidente, tutti a 5.000 euro al mese. 10 i componenti del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, 82.000 euro all'anno, però il direttore ne percepisce 115.000. Infine, se si va a vedere i grandi burocrati campani, si toccano vette a sei cifre. Cioè, il capo di gabinetto, Danilo Del Gaizo, prende 12.800 euro lordi. C'è un super dirigente come Di Ferrante, Alberto Di Ferrante, 137.000 euro lordi, Antonio Ferrara pure. E poi Gennaro Luigi Ramazio, che è capo dipartimento sui fondi europei, visto come vengono utilizzati, insomma, speriamo che lavori bene o meglio, beh, prende 190.000 euro lordi l'anno per fare la spola tra Napoli e Bruxelles. Allora, ultima notizia, tra poco più di 20 giorni, come sappiamo, l'Italia avrà un nuovo Parlamento, ma andrà a ingrossare chi non si è ricandidato ed è stato sconfitto o messo da parte dal suo partito, andrà a ingrossare le fila dei pensionati d'oro. Perché? Perché l'elenco dei pensionati d'oro aggiornato all'agosto 2011 comprende oltre 2.300 nomi, di cui tra l'altro una quarantina salernitani. In testa alla classifica svetta l'ex senatore democristiano Mario Valiante, con 30 anni di anzianità, 5.900 euro al mese. Due ministri, in epoche diverse, l'ex ministro dell'agricoltura, il verde Alfonso Pecoraro Scanio, 5.800 euro di pensione, e quello del Partito Popolare Michele Pinto, 5.600. E poi Carmelo Conte, 20 anni di anzianità nell'ex PSI, 5.300 euro. Il suo nemico storico, Paolo Del Mese, già sottosegretario, attualmente agli arresti domiciliari per il crack del pastificio Amato, guadagna anche lui 5.300 euro. E poi via così, si va a scorrere tutte l'elenco e obiettivamente fa impressione, avremo, quello lo dico con molta tranquillità, una nuova infornata di pensioni d'oro di tutti quelli che non potranno per vari motivi tornare in Parlamento. Detto questo, e mentre raccontiamo ancora questa estrema difficoltà della politica di tagliare realmente in maniera significativa i propri costi, al di là delle varie dichiarazioni, il Presidente della Corte dei Conti lancia un allarme, o meglio dice quanto banalmente tutti noi sosteniamo da tempo: se continui a aumentare il peso fiscale, a tagliare i trasferimenti, i consumi continueranno a calare, calando i consumi le imprese vendono meno, chiudono i battenti o mettono in cassa integrazione. Questo a spirale, una persona che è in cassa integrazione ha questo brutto difetto, e anche se è disoccupato, che non gli piace spendere e che tende a consumare un po' di meno, e quindi vai verso il cosiddetto avvitamento. Allora, il presidente Luigi Giampaolino: occorre ridurre la pressione e dare una più equa distribuzione del carico fiscale, così oggi il presidente della Corte dei Conti. La simmetria temporale tra gli effetti restrittivi prodotti dalle ripetute manovre di riduzione del disavanzo e l'impatto positivo sulla crescita degli interventi di sostegno dell'economia e delle riforme genera un equilibrio fragile, con il rischio di una rincorsa incompiuta degli obiettivi di finanza pubblica. In un periodo di tempo breve e con l'urgenza di corrispondere alle richieste dell'Europa, i margini limitati di riqualificazione della spesa pubblica hanno reso necessario dunque un ricorso ad aumenti del prelievo tributario, forzando una pressione fiscale già fuori linea nel confronto europeo e favorendo le condizioni per ulteriori effetti recessivi. E poi appunto il rischio avvitamento dalle manovre correttive. Attenzione, l'equilibrio, dice sempre Giampaolino, una frase un po' astrusa: la simmetria temporale tra gli effetti restrittivi delle ripetute manovre di riduzione del disavanzo e l'impatto positivo sulla crescita degli interventi di sostegno all'economia e delle riforme genera un equilibrio fragile e una rincorsa incompiuta degli obiettivi di finanza pubblica. Ci avete capito qualcosa? No, immagino. Da come la capisco io, quello che sta dicendo Giampaolino è che se tu prima tagli per mettere a posto i conti e poi parti in un tempo successivo con manovre di sostegno dell'economia, c'è un rischio di, con due fasi così distanti, di avere una, di rincorrere in maniera incompiuta. Cioè, se ti si abbassa il PIL per i tagli che tu hai fatto, non riesci comunque a centrare gli obiettivi di bilancio, perché lo continuiamo a ripetere, il deficit è un rapporto, non è un numero assoluto, è il deficit rispetto al PIL. Se questo PIL continua a calare più del previsto, tu puoi continuare a tagliare il deficit, ma sarà sempre troppo alto rispetto alle tue attese. Comunque la Corte dei Conti dice che il governo deve restare, il nuovo governo deve restare sulla strada del risanamento intrapreso. L'impostazione deve dunque essere ripensata in funzione di un obiettivo di più lungo periodo, che non può non investire la questione della misura complessiva dell'intervento pubblico nell'economia. La linea della Corte è stata univoca lungo l'intero arco della strategia di risanamento. L'azione di riequilibrio dei conti pubblici costituisce nonché essere espressione di un solenne impegno europeo, costituisce non solo una precondizione perché l'Italia possa riprendere il cammino della crescita economica, ma è essa stessa un fattore di crescita. Al nuovo Parlamento e al nuovo governo spetta il compito di esplorare, restando all'interno del sentiero di risanamento che conduce al pareggio di bilancio di cui si è detto, le azioni in grado di generare una più equilibrata composizione di entrate e spese una volta superata l'emergenza finanziaria. E poi la corruzione sistemica, dice sempre Giampaolino, pregiudica l'economia. La corruzione ha assunto una natura sistemica che, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica l'economia stessa della nazione. È da tempo che si è avuto modo di rilevare che la corruzione è divenuta da fenomeno burocratico pulviscolare fenomeno politico-amministrativo sistemico. La risposta, pertanto, non può essere di soli, puntuali, limitati interventi, circoscritti per di più su singole norme del codice penale, ma la risposta deve essere articolata ed anch'essa sistemica. Inoltre, la metamorfosi del fenomeno criminale della corruzione ha comportato un significativo mutamento della natura del disvalore dei fatti di corruzione e del bene giuridico offeso. In particolare, la natura sistemica della corruzione ha comportato un ingigantimento del bene giuridico offeso e una rarefazione del contenuto di disvalore dei singoli comportamenti. Non c'è ancora, vero? Allora, vedo molti messaggi sia al 349-238-6666 che su Facebook. Sì, devo dire, senza cadere nel populismo, però attenzione, anche gli stipendi, magari, cioè, un segnale potrebbe arrivare, poi ne parliamo dopo il meteo, anche da cariche importanti come quella del Presidente della Corte dei Conti, insomma, riduzione dello stipendio un 10%, visto che cita, molti di voi lo chiedono, cita una maggiore capacità redistributiva, beh, forse anche, insomma, no, dare un segnale dall'alto sarebbe importante. Alle 17:43 minuti riprende Focus Economia. Vedo che molti ascoltatori si lamentano non tanto per lo stipendio del presidente della Corte dei Conti, anche, ma per il suo italiano. Beh, devo dire, insomma, io non so se sia l'età, un massimo rispetto, però anche farsi capire nella vita, presidente Giampaolino, è importante. Lo dico perché io capisco che uno venga da una formazione più retorica, piena di circonlocuzioni giuridiche, ma insomma ci può anche spiegare al paese quello che è il suo messaggio senza girarci troppo attorno. Lo dico con massimo rispetto, se vuole un consiglio da chi fa comunicazione, cioè, insomma, non è possibile dire la simmetria temporale tra gli effetti restrittivi delle ripetute manovre di riduzione del disavanzo e l'impatto positivo sulla crescita degli interventi di sostegno all'economia e delle riforme genera un equilibrio fragile e una rincorsa incompiuta degli obiettivi di finanza pubblica. No, una volta diceva frasi brevi, soggetto, verbo, predicato. Cerchiamo di farci capire, anche per dare un segnale anche formale, che non c'è questa distanza tra il presidente molto ben pagato dalla Corte dei Conti e il resto del paese. Non siamo più al tempo di Masaniello, no? E allora cambiate stile anche voi, o fate posto ai giovani, visto che magari è un problema anche di età. Caro presidente Giampaolino, anche dire che la corruzione è da fenomeno burocratico è divenuta sistemica. Ma cosa vuol dire la corruzione da fenomeno burocratico? Cioè, come se ci fosse fosse un fenomeno burocratico. Non capisco veramente, ma non capisco l'italiano. Abbia pazienza, le chiedo scusa, ma ammetto la mia incapacità di comprendere alcuni suoi passaggi. Vabbè, dalla Corte dei Conti andiamo alla borsa e ai conti, soprattutto di un titolo che qualcuno lo ricorderà, era ai tempi di Pelliccioli, era una delle star della New Economy, Seat Pagine Gialla, arrivò a quotare 7 euro, più di 7 euro, adesso quota 0,0011 euro, cioè siamo a un millesimo di euro, una roba come tipo, cioè, qualche liretta di una volta, ma lire vere, e soprattutto la società ormai non so più come faccia a fare prezzo, adesso oggi ha perso il 26,7%. Allora ci colleghiamo con Roberto Brasca, vicepresidente di Acomea SGR. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Vorrei un commento subito su Seat Pagine Gialle e poi parliamo del resto della borsa. Mi scusi, cioè, tecnicamente quanto può scendere? Fino a 0,0001 ancora? Sì, finché c'è la possibilità di fare un prezzo. Vedo che oggi trattano 309 milioni di azioni, una cosa tremenda, ma che non vale niente. Quindi sì, teoricamente può scendere fino a quanti zeri vogliamo, penso che prima o poi verrà sospeso, quindi forse ai risparmiatori conviene, quanti hanno sperato fino adesso di rivedere prezzi poi oggi giudicati assurdi, forse di vendere e di concretizzare almeno il credito fiscale che deriva dalla perdita, perché qua insomma mi sembra che anche dopo la ricapitalizzazione che c'è stata, ecco, cioè la conversione di obbligazioni in azioni, cioè tutta Seat praticamente vale 12 milioni e mezzo di euro a questo punto. Ma cos'è? Sì, forse adesso guardo la capitalizzazione. Sì, dopo la richiesta di concordato preventivo. Ma a questo punto un titolo non dovrebbe essere ritirato? No, chiedo veramente. 18. Ma teoricamente no, nel senso che io finché è quotato posso vendermi e perlomeno, come dicevo prima, posso evidenziare un credito fiscale. Una volta che il titolo non è più quotato, io con i miei titoli non ci faccio proprio più niente. Sì, ecco, quindi lei dice sempre meglio valere oggi 0,0011 come l'ultimo prezzo di chiusura piuttosto che zero, piuttosto che niente, no, meglio non piuttosto. Solo, non solo. Non solo, nel senso che lo 0,001 non mi dà niente, però io concretizzo un valore di vendita e quindi sulla differenza tra l'acquisto fatto anche tanti anni fa e la vendita posso evidenziare una perdita. Questa perdita mi dà origine a un credito nei confronti del fisco, tale per cui se poi io su altri titoli è vero, vai meno svalenza, titoli, certo, faccio delle plusvalenze, ragione, fino a che non ho compensato questo credito fiscale non pago più le tasse. È vero, dopo il traffico capire perché insomma c'è una richiesta di concordato preventivo. Mi dica solo un'ultima cosa, gli obbligazionisti ma anche chi ha i warrant di Seat possono, diciamo, pensare ad altro nel senso negativo del termine? Beh, a questo punto anche gli obbligazionisti, sì, anche gli azionisti. La Standard & Poor's la dà un gradata in selective default, quindi vuol dire che siamo proprio agli ultimi. Poi non arriva un investitore che ci butta dentro tanti soldi, però bisognerebbe che fossero delle prospettive. Qual problema è stato che il business non si è mai veramente ripreso, è stato il grande perdente dell'affermazione di internet. Eh sì. Poi un giorno magari se avremo tempo sarebbe bello anche raccontare una storia, perché sembrava che da Seat Pagina Gialla dovesse partire proprio la grande cavalcata su internet, e invece è internet che se l'è mangiata, diciamo. È stato un vero paradosso, sì. Bene oggi Wall Street, sopra i 14.000 punti di nuovo, era già successo venerdì scorso, è tornato a capitare oggi, vuol dire il livello più alto di Wall Street del Dow Jones da prima che scoppiasse la crisi dell'ottobre del 2007. Altri dati diffusi oggi, i ricavi di Enel, più 6,8% a quasi 85 miliardi, però l'utile cala del 5%, l'utile pre-tasse. Tra i titoli invece, e vorrei invece tornare con lei, abbiamo visto un tentativo di recupero di alcuni bancari, dottor Brasca, Unicredit più 2,5, Intesa più 2,1, Monte dei Paschi, poi ne parleremo, è un caso a sé chiaramente, più 3,2%, però è un recupero molto molto parziale. Allora, lei che idea si è fatto di quello che è successo ieri? Perché va bene il Wall Street Journal che dice la politica italiana è piena di incertezze, va bene Commerzbank che ha avuto utili in netto calo, ma una sberla tra il 6 e l'8% era un po' che non la vedevamo per i vari bancari. Ma infatti certe volte è un po' come quando si fa l'interpretazione delle poesie, non è detto che chi interpreta le poesie interpreti il vero pensiero di chi le ha scritte. Allora, secondo me, diciamo che vengono prese questi eventi o queste notizie, sono stati presi come pretesti per scatenare una presa di profitto su titoli che avevano fatto una corsa tremenda. Allora, partivamo prima della fine dell'anno da valutazioni proprio a pavimento. C'era la sfiducia totale, addirittura per gli stranieri l'Italia era un paese non investibile. Siamo passati da uno status di paese non investibile a un status di paese dove vengono fatti noi e la Spagna, ma le banche italiane erano più basse, le banche spagnole, valutativamente. E siamo passati a uno status di normalità con difficoltà. Quindi c'è stato un riadeguamento delle valutazioni molto violento, sul quale oggi è fisiologica una presa di beneficio, perché sappiamo tutti, che leggiamo sulle pagine dei giornali, dei siti, che non è che l'economia italiana stia viaggiando a gonfie vele, e neanche quella europea. Certo, voi come diciamo, attività, dov'è che siete più esposti? Cioè dove avete preso dei rischi? Come settori? Noi anche eravamo molto esposti sulle banche italiane, avevamo comprato molti. Noi abbiamo questa politica di investimento che va un po' contro il consenso, e dove vediamo che ci sono degli eccessi sia al rialzo contro che al ribasso. Contro l'idea, come che consensus in inglese, io so che voi è una contrarian. Cosa un po' diversa, contro diciamo quello che è il comune sentire, diciamo quello contro che... il comune che sentire, esattamente, contro l'evidenza. Allora ci diciamo, insomma, in qualche modo, se tutti sono negativi su questi titoli, vuol dire che i prezzi riflettono già questa negatività e questa e infatti le valutazioni delle banche italiane rappresentavano in alcuni casi anche una frazione bassa del patrimonio netto tangibile, e questo è un elemento di valutazione importante. Detto questo, c'è stato un riapprezzamento del sistema italiano che non deve far pensare, noi non pensiamo che i titoli bancari italiani possano tornare ai livelli del 2007, ecco, nessuno deve sognare, però la differenza era tale e tanta, no? Per cui ci sembrava un buon punto di partenza e una presa di valore gli investimenti. In effetti noi eravamo molto esposti al comparto bancario. E anche voi avete un po' ridotto l'esposizione, mi sembra di capire. Qualcosa sì, durante il mese di gennaio, molto progressivamente, perché nessuno sa quando si arriva ai massimi, molto progressivamente abbiamo, insomma, come è ragionevole fare con un po' di buon senso. Allora, intanto ti do i titoli adesso. Già citavo Monte dei Paschi, Unicredit e Intesa San Paolo, però bene anche Snam più 2,22%, Finmeccanica più 2 come Eni, Buzzi Unicem più 1,70, Mediobanca più 1,5, Fiat Industrial pure, Tenaris l'1,20 di rialzo, Enel l'1,2 anch'essa, Generali più 1%, negativa Azimut meno 1,90, ST Microelectronics e Telecom Italia perdono l'1,80%, la Popolare di Milano l'1,40, il Banco Popolare è A2A l'1,1% di calo, Autogrill meno 0,90, Pop Milano meno 0,60%. Grazie e buon lavoro. Come sempre, quando non abbiamo Radio Coro invitiamo dei gestori. Grazie a Roberto Brasca, vicepresidente di Acomea SGR. C'è qualcuno che dice, grazie ancora sul mio commento, sulla difficile comprensione delle parole usate, delle circolocuzioni usate dal presidente della Corte dei Conti. Mi sorprende questo eccesso di confidenza da parte vostra. Ma l'abbiamo chiamato presidente, come dovevamo chiamarlo? Voscenza, ossia, non ho capito. Cioè, è proprio questo. Cioè, non siamo in quell'Italia lì del Gattopardo, forse. Allora, parliamo. Inutile far finta di aver studiato usando linguaggi che non si capiscono. Parliamo chiaro, che tutti capiscono quali sono i rilievi della Corte dei Conti, visto che uno è pagato anche per farsi capire, oltre che per intervenire. Alle 18:07 minuti riprende Focus Economia e riprende purtroppo quello che sta diventando un appuntamento quotidiano, l'aggiornamento sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena. Qui non si fa tempo a chiudere, per modo di dire, chiudere un'ipotesi, nel senso che oggi dallo IOR hanno smentito, dalla Banca del Vaticano, che possono essere mai stati dei conti correnti su cui transitavano fondi, conti correnti allo IOR. Lo ha dichiarato il portavoce del Vaticano, padre Federico Lombardi. Ma perché lo dico? Perché prendiamo per vere, ci mancherebbe le dichiarazioni dello IOR, e se si chiude perlomeno parzialmente un fronte, se ne riapre subito un altro. Il fronte questa volta si chiama San Marino, e come farsi mancare San Marino? Vorrei capire che cosa sta succedendo e perché si chiama in ballo anche San Marino, con la nostra Raffaella Calandra, ossia, che ci sta raccontando ogni giorno la cronaca soprattutto giudiziaria di questa inchiesta. Raffaella, buonasera. Sì, buonasera Sebastiano, a te e ai nostri ascoltatori. Allora, fammi indovinare che cosa è successo su San Marino e perché viene tirata in ballo la Repubblica di San Marino per la vicenda Monte dei Paschi. Perché nel 2009 c'è stata un'indagine che ha coinvolto una filiale di Forlì del Monte dei Paschi, in un'indagine molto grossa che riguardava la Cassa di Risparmio di San Marino, un'indagine in cui era stato partita da Milano, ma che poi insomma si era ovviamente concentrata soprattutto a Forlì, la procura competente, che aveva ricostruito come la Cassa di Risparmio di San Marino avesse fin dal 1989, e questa data è importante considerando che tipo di indagini stanno facendo a Siena, cioè che sono le indagini soprattutto su Antonveneta, quindi recenti, però dal 1989 la Cassa di Risparmio aveva acceso presso il Monte dei Paschi di Siena di Forlì un conto, il 4370, presso il quale diciamo affluivano moltissimi, c'era un gran movimento di assegni che venivano cambiati in contanti, l'80% con banconote da 500 euro. In sostanza, la filiale del Monte dei Paschi richiedeva le banconote alla locale filiale della Banca d'Italia dal proprio conto di gestione, e questo anche attraverso un meccanismo che secondo la procura emiliana era sbagliato, perché veniva classificato in modo sbagliato cioè il conto che la Cassa di Risparmio aveva aperto, cioè risultava come un intermediario non appartenente all'area dell'Unione Europea come era la Cassa di Risparmio. In sostanza, due filiali, quella della Monte dei Paschi, attraverso il quale c'era tutto un giro di assegni e di contanti con la filiale della Banca d'Italia, aspetti molto poco chiari che quindi i magistrati di Forlì ora hanno girato per competenza anche ai magistrati di Siena, visto che stanno indagando proprio su tutti quegli aspetti poco chiari intorno ai movimenti finanziari che avvenivano all'interno della, certo, della banca. E domani sarà una giornata delicatissima per il Monte dei Paschi, perché c'è il consiglio di amministrazione che dovrà fare il punto sulle perdite legate ai derivati. E secondo le previsioni si potrebbe arrivare a oltre 700 milioni di euro di perdite sugli strumenti derivati. Ma ripeto, in questo momento il problema non è capire, o meglio, c'è anche il problema di investimenti che si sono rivelati in perdita e scriteriati, ma il vero punto è capire se questi derivati sono stati comprati per una valutazione oggettiva, che poteva essere uno strumento, uno sbaglia nella vita, per carità, paghi, oppure se dietro, che è l'ipotesi su cui ragionano i magistrati, vedi la finanziaria svizzera e le commissioni da 600.000 euro, o se invece questi derivati non fossero stati comprati perché, diciamo, dietro c'era una stecca, una mazzetta, chiamatela come volete, quindi sotto la voce di commissione, quindi non comprati perché uno onestamente li ritenesse essere un buono strumento, anche se molto rischioso, ma perché, diciamo, c'era un triangolo in cui ci andava a guadagnare il manager che faceva l'operazione. Ed è interessante che proprio domani in procura a Siena viene interrogato proprio l'ex direttore generale Antonio Vigni, nei cui, sì, cassetti, nella cui cassaforte, diciamo, c'erano quei contratti derivati. Ecco, questo per quello che riguarda appunto i contratti derivati. Tu su questo hai sentito tra l'altro anche altre vari esponenti in questi giorni, varie interviste che hai ottenuto, e adesso non posso ripercorrere tutti i fronti aperti, però tra l'altro c'è anche un esposto, oggi si viene a sapere che c'è anche un esposto della Consob, perché cosa succedeva? Non soddisfatto dei guadagni sui conti offshore nel 2009, l'ex responsabile dell'area finanza del Monte dei Paschi, Gianluca Baldassare, continuava a scambiare titoli liberamente con i suoi amici, spesso anche durante le sue lunghe vacanze a Miami, nel completo disprezzo delle buone norme di condotta aziendali. Acquista e vende titoli direttamente dalla spiaggia, accusa la talpa del Monte dei Paschi nell'esposto con cui denunciò un insieme di cose alla Consob, tra cui la banda del 5%. A Roma è stato interrogato il cronista di Report, che ha riferito di incontri e conti allo IOR. E anche Radio 24 nei giorni scorsi vi aveva parlato di conti e manager del Monte dei Paschi nella Banca del Vaticano. Tra i primi a inviare un esposto alla Consob, Raffaella, tu hai sentito Rocco Semplici, che dice, sostiene, già nel 2008 potevano partire le verifiche. Nel 2008, non avendo risposte adeguate dal CDA di Montepaschi in assemblea, un azionista fece un esposto alla Consob per avere notizie di come venivano democraticamente riferiti questi fondi. Io, insieme a questo azionista e un altro, eravamo quelli che dall'assemblea, appunto, di incorporazione Anton Veneta nel marzo 2008, eravamo gli unici oppositori a questa operazione. Chi si oppone, specialmente dentro il Monte, prima c'era veramente il rischio di ritorsioni. Voi nel vostro esposto parlavate anche dell'area finanza della banca? Era un esposto basato su delle criticità ben individuabili. Avrebbero forse permesso alla Consob già all'epoca di venire a verificare che cosa succedesse all'interno di MPS? Sì, non solo. Noi pensiamo che anche la vigilanza di Banca Italia qualche cosa da imputarsi l'abbia, ma possibile, noi certe cose l'avevamo viste, e chi aveva strumenti, mezzi e il dovere soprattutto di controllare capillarmente queste cose non abbia fatto i giusti rilievi. Io feci proprio riferimento a un report interno alla banca che sconsigliava di andare avanti un'operazione di quel genere in quel momento particolare, con quei termini di costi e di tempi. Ora io lo ridico, nessuno vuole mettere sotto accusa la Banca d'Italia e la Consob, però a me tutta questa autoassoluzione, abbiamo vigilato, anche il Fondo Monetario, la Banca d'Italia, azione tempestiva adeguata, ma insomma c'era un esposto alla Consob, non si è mosso nessuno, c'erano gli ispettori nel 2010 che riferiscono alla tarantola di gravi irregolarità, insomma, si muove molto poco, non so, sono tutti così tranquilli e sicuri con quello che sta venendo fuori un verminaio nel dire noi abbiamo vigilato bene? Non so. Io resto sempre perplesso. Raffaella Calanda, tu hai raggiunto però anche Antonio Rizzo, ormai mitico manager della Dresdner Bank, che coniò la battuta della banda del 5%. Ma sì, in realtà non è che lui coniò questa battuta, lui parlandone con Cortesi, quello sì, certo, che appunto un suo collega referente di Londra gli aveva a sua volta detto circa la voce, diciamo, che veniva data come notoria, così si legge negli atti dei verbali, di come appunto il responsabile dell'area finanza Baldassarri e il responsabile della filiale di Londra, poi smantellata, dettaglio non secondario, fossero considerati e chiamati come la banda del 5%. Lui ha riferito alla Guardia di Finanza a Roma quello che aveva già messo a verbale nel 2008 a Milano, anche con delle registrazioni, perché aveva registrato quelle conversazioni a sua tutela, ci ha raccontato Rizzo. Ho riportato semplicemente alcune conversazioni che avvenivano all'interno di Dresdner su un'operazione anomala dal punto di vista della procedura. Il suo rapporto con il capo dell'area finanza di MPS, ossia Baldassarri, sì, com'era? Le dichiarazioni che vengono fatte a me all'interno di Dresdner mi trovano meravigliato. Non ha mai ammiccato, chiesto qualcosa. Quando le parlavano di MPS, le riferivano anche dell'operazione Anton Veneta, che era stata dell'anno prima? No, assolutamente. Non avrei mai immaginato quello che c'era sotto. Erano incontri di lavoro. I miei avvocati mi dicono, guarda, è meglio in queste circostanze registrare in autotutela, perché abbiamo visto casi in cui alla fine chi ha alzato il problema è diventato la vittima del problema. Perché ha detto che dobbiamo aspettarci delle sorprese rispetto a Baldassarri e 20 milioni trovati all'estero? Ma perché secondo me un direttore di un'area finanza fa uno scudo da 20 milioni e non sospetta che la banca che glielo fa possa segnalarlo. Se ha fatto questo non era poi così furbo. Di quello che lei ha raccontato ai magistrati, l'ex ministro Tremonti sapeva qualcosa? No, assolutamente. Mi metto a disposizione per la campagna elettorale. Un rapporto, diciamo, molto trasparente. Il rapporto mio con Tremonti è un rapporto assolutamente casuale. Con Tremonti ci conosciamo per i miei articoli sui giornali, poi ci vediamo in un paio di occasioni pubbliche e io vado a Riccione alla sua presentazione manifesto, faccio un intervento che trovate online e dopodiché mi chiede, io mi metto a disposizione per la campagna elettorale e lui mi dice va bene, diciamo, collabori tranquillamente. Grazie a questo punto Antonio Rizzo, grazie anche a Raffaella Calandra, insomma, anche a noi sembra strano che un manager, per quanto guadagni bene in banca, possa scudare 20 milioni di euro e nessuno segnalarlo. Devo dire che sulla vigilanza, mi dispiace se insisto, ma il Financial Times la pensa in maniera un po' diversa dal Fondo Monetario, perché scrive oggi che lo scandalo Monte dei Paschi mostra tutte le sfide che la Banca Centrale Europea sarà chiamata ad affrontare, visto che con i nuovi regolamenti è la Banca Centrale Europea che dovrà sorvegliare le 200 maggiori banche dell'area euro. E il tema, dice Financial Times, probabilmente sarà affrontato da Mario Draghi, che era governatore della Banca d'Italia fra il 2006 e il 2011. Sarà interessante la conferenza stampa di Mario Draghi giovedì Francoforte. Scrive Financial Times, Draghi è senza dubbio ben consapevole del pericolo per la Banca Centrale Europea legato alla valanga di fango che arriva dalla vicenda Monte dei Paschi di Siena e che rischia di toccare anche la BCE stessa. E vedremo se capiterà così, e quello che dirà Draghi giovedì. Grazie a Raffaella Calandra. Dopo il traffico, l'ultimo aspetto, come ogni settimana con Guido Gentili rifacciamo il punto della campagna elettorale per quello che riguarda le proposte di economia. I dati continuano ad arrivare, li ricordavamo, record della cassa integrazione, più 14% di richieste di disoccupazione, inflazione in netto calo ma ancora alta sui generi alimentari, e le risposte o le soluzioni, ammesso che ci siano, che stanno arrivando di vari schieramenti politici. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, ultima parte di Focus Economia, la cronaca, diciamo, delle proposte del dibattito politico per quello che riguarda le misure economiche. vi anticipo che siamo sempre fermi all'IMU e non a politiche di scenario, di sistema, che ci dicono cosa fare sul fronte occupazione, dei rapporti con l'Europa, del deficit, dove trovare le risorse. Comunque, nell'ordine, vi faccio ascoltare il leader della Lega Nord, Roberto Maroni, che dice no, no al condono fiscale proposto da Berlusconi. E il leader, o meglio, il presidente del Consiglio uscente Mario Monti sull'IMU, la risposta di Berlusconi sull'IMU è Bersani. Facciamo un bel pacchettone di voci, vai. Non mi piacciono i condoni, non mi piacciono questi colpi di spugna, quindi su questo punto io non esprimo un consenso a proposte di questo genere. Non c'è peraltro nel programma, nel nostro programma. Io preferisco, ripeto, un'altra strada, che quella che c'è nel programma, ed è quella di combattere l'evasione attraverso il contrasto di interessi. L'IMU, che era già stata disegnata dal governo precedente e noi abbiamo dovuto metterla anche sulla prima casa, data l'urgenza di fare gettito. A differenza di altri più generosi futuri governanti, temo che non ci sia spazio per restituire quanto è stato pagato dai contribuenti allo Stato per il 2012. Quella sembra una bella promessa, è una polpetta avvelenata, perché poi ci sarebbero conseguenze finanziarie che sono quelle che già oggi determinano qualche primo segno di turbolenza nei mercati finanziari. Speriamo che non proseguano. È un'altra delle stupidaggini che abbiamo sentito soprattutto in questi giorni. Gli interessi che dobbiamo pagare sulle emissioni dei nostri titoli del debito pubblico sono interessi che vengono stabiliti da ciò che succede sul mercato secondario, che tratta l'acquisto e la vendita di questi titoli pubblici. Sono assolutamente indifferenti sia all'attività di governo sia a quelli che sono i programmi di governo. Questa tassa, l'IMU, ha prodotto una distanza, un vallo tra gli italiani e lo Stato. Credo che sia questa non soltanto un'imposta sbagliata per le famiglie, ingiusta per le famiglie, ma anche un'imposta che va esattamente nella direzione opposta della ripresa e dello sviluppo. Domanda: la destra esiste in Italia? È molto tempo che lo dico, vedo lo stupore. La destra esiste. La destra ha distrutto questo nostro paese in 10 anni e adesso cerca il rilancio con la demagogia. Noi vinceremo senza demagogia. Io non intendo in nessun modo inseguire sulla demagogia, per un motivo molto semplice. Prima di tutto l'Italia. Noi abbiamo una destra irresponsabile verso i destini dell'Italia. E non si batte, non si guarisce l'irresponsabilità aggiungendone altra. Stavolta siamo a un passaggio decisivo. Sì, volete sapere anche di Grillo, del Movimento 5 Stelle, e di Oscar Giannino? Allora, abbiamo invitato più volte il Movimento 5 Stelle, Oscar Giannino sarà nostro ospite, perché comunque ascolteremo anche le loro proposte. Però, insomma, volevamo farvi ascoltare i tre partiti, di tre schieramenti principali. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, non voglio essere irriverente, non voglio fare la battuta poche idee ma confuse, però tutto un dibattito che ruota attorno all'IMU, fermo restando che Maroni ha detto il condono fiscale no, quindi non capiamo dove arriveranno le risorse. L'IMU sono 4 miliardi, tutti si sono dimenticati che se non cambia le cose scatta poi l'aumento dell'IVA, che sono altri 4 miliardi, dal 21 al 22%. Possibile che, è solo una mia sensazione, ma qui ci siano delle iniziative singole, IMU da un lato, contrasto all'evasione dall'altro, ma sembri mancare un piano di sistema, un piano organico fatto per punti, forse è sfuggito a me, Guido. No, sicuramente è così, purtroppo questa è una campagna elettorale da questo punto di vista dei contenuti e della possibile impostazione di politica economica di cui ha bisogno un paese in gravissima crisi come l'Italia, che non è partita su questo terreno, è partita con i sondaggi in mano su un tema che è certamente fondamentale, perché la questione fiscale è un dato di fatto fondamentale per questo paese, e quindi alzando ulteriormente le tasse non, certamente non creiamo crescita, dobbiamo correggerla questa tendenza, ma detto questo lo si fa in modo estemporaneo, con delle proposte che si rincorrono l'una con l'altra, spesso magari proponendo delle tasse a copertura dell'eliminazione di altre tasse, quindi voglio dire è un discorso da questo punto di vista poco serio e che non ci porta da nessuna parte. Questa però è, diciamo, la realtà a una ventina di giorni dalle elezioni, e mi pare che si vada combattendo proprio su questo terreno minimo di risposta e controrisposta sull'unico dato, quello fiscale, che diciamo è diciamo da un punto di vista dei sondaggi premia, ecco, o non premia a seconda qui, dei punti qui volevo di arrivare vista. Fermo restando che rispondo a ai simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, ma se Grillo non vuole parlare con le radio e le TV, cosa dobbiamo fare? Mica possiamo obbligarlo. Tutte le volte che vorrà venire Grillo, chi per esso, siamo qua ad accoglierlo come tutti i candidati a queste elezioni. Però volevo chiudere con te, Guido, perché questo qua, queste iniziative sporadiche, vabbè, secondo me non hanno nessuna efficacia dal punto di vista del risolvere la crisi e affrontarla per le corna, ma almeno hanno un effetto nei sondaggi, oppure al di là del, oppure ce l'ha più il Monte dei Paschi l'effetto sui sondaggi? Questo voglio capire. Ma certamente il tema fiscale sui sondaggi è un tema certamente sensibile. Se tu parli del Monte dei Paschi e di questa settimana, degli ultimi 10 giorni, credo che questo aspetto sia ancora più sensibile, quello del Monte dei Paschi e l'emersione dei problemi che stanno venendo fuori su questo scandalo, che devo dire ha dei risvolti impensabili fino a qualche settimana fa e che ci riserva delle continue sorprese, e devo dire che colpisce molto e anche giustamente l'opinione pubblica. Più che le singole iniziative sul di carattere fiscale, secondo te a questo punto, visto che le varie cartucce, adesso non so cosa possa arrivare ancora, sono state sparate, si vanno assestando le intenzioni di voto, o potrebbe esserci di fronte a una nuova iniziativa forte un altro passaggio? Io penso che ci sia ancora, dobbiamo aspettarci ancora qualche scossone. E penso che ancora, diciamo, dalle tre formazioni maggiori, almeno, che di cui abbiamo parlato all'inizio, qualche sorpresa arriverà ancora, perché sono 20 giorni, sono ancora tantissimi per arrivare alle elezioni, e credo che ci sarà qualche sorpresa con qualche altra proposta, non so sul tema fiscale o sul lavoro o comunque sui temi più sensibili della politica economica, però credo che non è finita qui la partita da questo punto di vista. Sì, poi con inchiesta della magistratura a parte. Grazie Guido Gentili, veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Non se ne abbia presente la Corte dei Conti, Gian Paolino, se abbiamo detto che si capisce poco quando parla, che deve essere un po' più chiaro, era un consiglio benevolo. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.